Euroreportage. Helsinki, al fronte dell'Unione nella crisi russa, di Gigi Donelli. Ma da Helsinki saranno 300 chilometri, ma San Pietroburgo in treno ora dista 4 ore da qui, quindi è molto, molto vicino. Marco Siddi è un ricercatore all'Istituto finlandese di politica internazionale di Helsinki, dove si occupa soprattutto di Unione Europea e di Russia. Studia l'evoluzione dei rapporti del paese scandinavo con la Russia, che proprio mentre celebra 20 anni nell'Unione Europea deve fare i conti con la grave crisi dei rapporti con Mosca innescata dalla crisi in Ucraina. Nella storia finlandese la Russia non ha un ruolo negativo come può essere nel caso dei paesi baltici, della Polonia. Di fatto nel XIX secolo fu l'impero zarista a concedere un'autonomia alla Finlandia che precedentemente gli svedesi avevano negato. Per cui oggi, se appunto si passeggia nelle strade di Helsinki, possiamo vedere una statua di Alessandro II, possiamo vedere i segni proprio della presenza, chiese ortodosse. Ci fu una fase che poi è coincisa con quella della rinascita o della nascita culturale della finlandese, che coincide col periodo di regno, cioè di governo zarista. Era il 29 gennaio quando il Consiglio Affari Esteri dell'Unione, riunito a Bruxelles in via straordinaria, decise di prorogare di altri 6 mesi le sanzioni contro la Russia, di fatto di confermarle almeno fino al settembre 2015. In quell'occasione annunciò anche di essere decisa ad allungare ulteriormente la lista degli individui colpiti. Della possibilità invece di ulteriori misure economiche circolate nella bozza della vigilia non rimane traccia, un chiaro segno di quanto serrata sia stata all'interno dell'Unione, ancora lo sia, la trattativa tra chi spinge per una linea più dura, i paesi baltici e la Polonia in particolare, e chi invece vuole la mediazione, esprimendosi magari in maniera più o meno esplicita, e tra questi mettiamo senz'altro gli italiani, i francesi, i tedeschi, gli inglesi e più sonoramente i greci. Un caso a parte è proprio quello della Finlandia, membro dell'Unione Europea che ha la più lunga frontiera con Mosca, oltre 1300 chilometri. E poi una storia fatta di soggezione, di dipendenza, di ribellione, di difesa, di guerre e di tutela strenua della propria autonomia. Helsinki è però la capitale dell'Unione che più di ogni altra ha definito drammatica la crisi con la Russia, insistendo per una soluzione diplomatica. Il 22 gennaio scorso lo ha fatto a gran voce il Presidente della Repubblica, insistendo sulla necessità di governare la crisi ma anche di migliorare i rapporti con quello che ha definito il nostro grande vicino orientale. Alla Facoltà di Economia dell'Università di Espoo, una palazzina moderna a 2 passi dal centro, ne parlo con il professor Sixten Korkman, direttore di IETLA, The Economic Research Institute of the Finnish Economy, capo anche di EVA, il Forum Politico-Economico Finlandese, un uomo che ha alle spalle, tra l'altro, un decennio a Bruxelles. Tra crisi che colpisce anche a nord, le difficoltà dell'economia, il dibattito sul rifinanziamento dei deficit di alcuni stati del sud e la crisi con la Russia. Non è per caso, professore, che questi 20 anni di Helsinki nell'UE siano in fondo celebrati all'insegna dell'euroscetticismo? Absolutely no. And even the most critical party, the so-called true Finns. Assolutamente no. L'adesione culturale dei finlandesi all'Unione Europea ha radici particolarmente profonde, tanto che nemmeno i partiti più esplicitamente euroscettici, e dunque anche i veri finlandesi di Timo Soini, hanno mai chiesto di uscire dall'Unione e nemmeno dall'euro. Direi che c'è un'attitudine europeista che non è mai stata tanto forte nei 20 anni di questa storia. Ma certo questo non ci impedisce di criticare l'Unione quando riteniamo che la crisi economica che stiamo attraversando non sia gestita al meglio. L'Unione Europea è ormai un elemento cardine della nostra identità geopolitica. Nessuno dovrebbe dimenticare che la Finlandia ha vissuto per decenni nell'ombra della grande potenza sovietica e che non è sempre stata una relazione facile da gestire per i nostri governi. Ecco che dunque, quando l'Unione Sovietica è collassata, noi finlandesi abbiamo visto aprirsi la grande opportunità di dare una svolta alla nostra condizione ed affermare con tutta la chiarezza possibile che noi finlandesi ci siamo sempre considerati parte dell'Europa occidentale, che ci sentiamo parte dell'Occidente, ed è proprio per questo che 20 anni fa abbiamo votato a larga maggioranza per entrare nell'Unione e nell'Euro. 20 anni dunque da europei convinti, con delle ragioni speciali che impongono una grande attenzione al tema Russia. Alla Banca Centrale di Finlandia ho chiesto invece a Seija Lainela, senior economist dell'Ufficio Studi, una riflessione sulle sanzioni, sulla loro efficacia, sul loro effetto sull'economia della Finlandia stessa. Whether we think about the efficiency of sanctions as regards the Russian policies. Qualunque cosa si possa pensare sull'efficacia delle sanzioni economiche, dobbiamo comunque cercare di tenere ben distinti quelli che sono gli effetti sulla politica della Federazione Russa e quelli che invece sono gli effetti sull'economia del paese. Di certo l'impatto sull'economia è significativo, lo è stato fin dal momento del primo pacchetto di sanzioni. Le misure decise dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti hanno ridotto le possibilità di operare delle imprese russe sui mercati internazionali e lo hanno fatto soprattutto sulle grandi compagnie. Le sanzioni hanno ridotto la capacità delle compagnie petrolifere di accedere agli strumenti tecnologici che servono proprio a mantenere i livelli di sfruttamento dei campi petroliferi attivi e di sviluppare quelli nuovi. Ma si può dire che la Finlandia sia il paese più colpito tra quelli dell'Unione dagli effetti legati all'applicazione delle sanzioni? Assolutamente no. Io credo che in Europa ci sia stata la tendenza a sopravvalutare l'impatto della crisi russa sull'economia della Finlandia, che è molto cambiata negli ultimi 20 anni di adesione all'Unione Europea ed è meno dipendente dal mercato russo. Nel 2013 la quota delle esportazioni finlandesi verso la Russia era già scesa al 10% del totale ed è probabile che nel 2014 il valore sarà addirittura all'8%. Insomma, anche per noi finlandesi sono tempi difficili, come per tutta l'economia europea, ma non a causa della Russia. Il vero problema di lungo periodo è che l'economia russa fa i conti con anni di crescita economica rallentata, mascherata a lungo dietro al valore del petrolio. Sono dunque problemi che non hanno a che fare tanto con le sanzioni, ma sono interamente legati alle debolezze strutturali dell'economia russa. Forgiati da una lunga relazione che ha contemplato le guerre quanto la pace e che nel 1975 ha dato vita con il cosiddetto Trattato di Helsinki a quello che oggi è l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa, ecco perché nonostante la crisi Helsinki si ritenga di fatto solida nel suo essere europea, occidentale, sostenitrice delle sanzioni e al contempo del dialogo con Mosca. I dubbi, qui come altrove in Europa, nascono piuttosto su altri fronti, come ci spiega ancora il professor Korkman. Noi finlandesi siamo convinti della scelta europea, ma ovviamente pensiamo di potere e dovere anche criticare l'Unione, esattamente come facciamo regolarmente per ciò che riguarda le decisioni di politica interna. Ci sono dei temi aperti e molto discussi legati all'indebitamento dei paesi, per esempio. In questo senso sono personalmente contento che la Banca Centrale Europea abbia finalmente preso l'iniziativa che conosciamo come quantitative easing. In Europa abbiamo un problema legato alla debolezza della domanda aggregata e quando le politiche fiscali sono strettamente vincolate a causa del debito che affligge alcuni paesi dell'Unione, ecco che l'economia fa molta fatica a funzionare in maniera corretta. Purtroppo siamo totalmente privi di una visione comune e direi anche di una diagnosi della crisi. I tedeschi parlano continuamente di austerity, mentre nell'Europa meridionale si parla sempre di espansione e di aprire la borsa. Siamo divisi e questo pesa molto sulla nostra capacità di uscire dalla crisi. C'è poi l'aspetto istituzionale che solleva la questione della governance europea. In molti, soprattutto a sud, chiedono di dare più poteri all'Unione, chiedono agli Stati membri di rinunciare ulteriormente alla propria sovranità. Qui nel Nord Europa noi siamo preoccupati per questa tendenza. Crediamo che i paesi non siano ancora pronti a rinunciare alla propria sovranità nazionale. Se Bruxelles continuasse a insistere su questa strada, penso che si finirebbe per creare solo ulteriori tensioni, che potrebbero mettere in pericolo la solidità del sistema. Noi vorremmo un sistema in cui la responsabilità per le conseguenze e il potere decisionale vadano avanti di pari passo. Questo vuol dire che se gestisci male le tue finanze e dunque la tua economia, ti devi fare carico di trovare una soluzione. Non crediamo in un'Europa in cui l'unione bancaria significhi che se qualcuno gestisce male le proprie banche, tutti gli altri devono correre in soccorso di quello Stato per la paura che possa crollare il sistema. Because we are afraid of an escalating banking crisis, but we have other means of managing the banks. Euro Reportage in collaboration con Euronet Plus.